anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa era la sigla di Basement Records e quindi siamo ancora qui per questo sabato sera a proporvi vinili di recupero. Questa è la sigla di Basement Records, il divertissement pop di Pierre Henry. Una leggenda della musique concrète, della musica accademica di scuola francese che si rifaceva a metà degli anni 50 a riprendere i suoni da oggetti concreti e non da strumenti concreti, nel senso di qualunque cosa ci sia intorno a voi, cioè un tavolo, basta che non sia uno strumento. E Pierre Henry, insieme a Boulez e a altri francesi, sono stati veramente i pionieri e gli iniziatori di questa scuola che poi ha avuto i suoi frutti, come ben sappiamo, negli anni a venire. E questa è una puntata un po' particolare, però ecco, come sempre, prima di di partire con le varie storie. Scusate che abbasso un po' i livelli perché mi sembrava di essere arrivato un po' troppo in alto. Ora lo rialzo, vabbè, do it yourself come sempre. Però, come dicevo, prima di fiondarci dentro ai solchi vinilici, ricordo come sempre tutti i contatti per mettervi in contatto, appunto con noi qui di Radio Wombat. Il sito è sempre radiowombat.net, dove potrete trovare appunto tutti i podcast delle attuali e delle vecchie trasmissioni, dove potrete ascoltare lo streaming in diretta via web della radio e essere aggiornati costantemente sulle ultime notizie che gravitano intorno all'universo di Radio Wombat. Poi c'è sempre la nostra frequenza fisica, la nostra frequenza in onde medie o in onde mediocri per gli amici, se preferite. Se siete nella zona di Firenze potrete sintonizzare le vostre radioline oppure la vostra autoradio in macchina sulla frequenza 1359 1359 rigorosamente in AM. E come mi è capitato di dire altre volte, magari se vi trovate da un'altra parte del mondo e durante la notte le onde medie sfruttando l'isosfera arrivano da voi, perché appunto se non so se lo, forse non tutti sanno che, ma la M con la notte, quando raggiunge un certo strato dell'atmosfera, le onde si propagano a dismisura e come capitava qui appunto in Italia di poter sentire Radio Londra, Radio Luxembourg, Radio Mosca durante la notte, magari chissà anche qualcuno disperso a giro per il globo durante la notte può ascoltare Radio Wombat. Fateci sapere se siete da qualche parte del globo e per puro caso in onde medie siete riusciti ad ascoltare Radio Wombat, che farebbe molto piacere, ecco. Poi la nostra casella di posta, la nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social, sui social network, su Twitter, twitter.com/radiowombatfi e la pagina Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze, e potrete trovare tutti gli ultimi aggiornamenti anche sui social. Bene, questa è una puntata un po' sui generis, perché invece di chiacchierare a 2000 come al solito, cosa che mi sembra di star continuando a fare anche all'inizio di questa trasmissione, l'avevo pensata più come una trasmissione d'ascolto per me e per voi, visto che i dischi di stasera, che non sono molti ma sono molto concentrati, si sta parlando di tutte grandi star che hanno bisogno di un'introduzione relativa, secondo me, anche perché soprattutto almeno un paio degli artisti che vi riproporrò stasera sono già stati ampiamente, direi, sviscerati in puntate di Tonight Alive, quindi come non fare a rimandarvi ad ascoltare quelle puntate nel caso vi dovessero piacere particolarmente gli artisti. Però appunto, essendo una puntata particolare, dopo la sigla io ricomincerei un'altra volta con i Lazy Pack Sound, non facendo ascoltare la sigla, ma il lato B, che tra l'altro è stata sigla per un po' di tempo, un po' di anni fa, però era tantissimo tempo che non la rimettevo, e faceva piacere appunto continuare a sentire gli esperimenti pop di Pierre Henry, e quindi ci ascolteremo dopo aver ascoltato la sigla Psyché Rock. Ci andremo ad ascoltare il lato B di questo singolo, che è Too Fortiche, Lazy Peck Sound, Pierre Henry. Naturalmente qui a Basement Records, Radio Wombat. Eccolo! Questa era Too Fortiche, sempre dei Lazy Peck Sound di Pierre Henry. Bellissima anche questa. Era tantissimo tempo che non la riascoltavo. Veramente a me piace particolarmente molto anche questa, oltre, vabbè, chiaramente alla sigla che vi faccio ascoltare sempre, che deve aver apprezzato molto anche Matt Groening, come vi ricordo spesso, avendola usata come sigla di Futurama, del suo Futurama. Passiamo ai prossimi artisti di stasera, in questo caso un 33 giri in versione raccolta, e sono i Tubes, una rock band di metà degli anni 70, divenuta particolarmente famosa e idolatrata dai suoi fan, perché oltre al lato quello musicale, che assomigliava, cioè era una versione molto rock, ma ancora non eravamo ai livelli del punk rock, però erano molto famosi perché il loro era uno spettacolo, diciamo, passatemi il termine, multimediale, perché oltre oltre ovviamente a suonare le loro canzoni, era proprio come uno spettacolo di teatro dove c'erano vari sketch durante il concerto, cambi di costume, effetti speciali, acrobati. Era proprio uno spettacolo all'interno del concerto ed erano anche abbastanza, diciamo, attivi nel, cioè, da un lato critico, ecco, non era un entertainment asettico giusto per vendere i dischi e basta, ma avevano un lato anche abbastanza critico e, diciamo, tra virgolette, politico. Infatti, la prima canzone che ci ascolteremo, che è il loro grande successo, è White Punks on Dope, che è una feroce critica, è un assurdo inno del misero eccesso della progenie dell'elite di Hollywood. Quindi prendevano particolarmente in giro appunto i figli dell'alta borghesia californiana, e da qui il titolo White Punks on Dope, anche se in quel 1975, proprio per l'esplosione del punk, si dovrà aspettare ancora un altro paio di anni. Tra l'altro in questo loro primo disco da cui sono tratte, dall'esordio da cui sono tratte le canzoni che ci ascolteremo, la cantante all'interno del loro spettacolo teatrale, all'interno dei concerti, prende le parti di Qualud, che non è scritto come Qualud, come il medicinale barra droga, ma insomma l'intento era quello. Il Qualud era uno stupefacente, una medicina, tra virgolette, molto in voga negli anni 70, specialmente negli ambienti delle discoteche, ma non solo. Sono venuto a conoscenza appunto leggendo dei ve vecchi vecchi libri sulle discoteche newyorkesi, e sono venuto a sapere, appunto, a conoscenza di questo medicinale che veniva usato appunto per sballarsi. E poi una volta che la dea, non nel senso di Dio femmina, ma del Dipartimento Antidroga americano, si rese conto che appunto la gente se lo prendeva per sballarsi, lo mise prontamente fuori commercio, e quindi sparì definitivamente dalle bocche, dalle tasche dei frequentatori delle allegre nottate americane, ecco. E quindi, meno male, dovevo parlare poco, tra virgolette, e a questo punto ci andremo ad ascoltare il grande successo dei Tubes, ovvero White Punks on Dope, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? Teenage, you had a race, woman. のテトロンは定人です。 Questa era White Punks on Dope dei Tubes. E questo primo singolo ovviamente fu clamorosamente ostracizzato in America, come era abbastanza prevedibile, però nonostante tutto riuscì a raggiungere la 28ª posizione nelle classifiche nella classifica ufficiale inglese, però arrivò addirittura alla posizione numero 28 nonostante la promozione praticamente nulla e solo con il passaparola, insomma, mi sembra un grande risultato, va dato atto ai Tubes anche perché i loro spettacoli erano, cioè i loro concerti erano uno spettacolo all'interno del concerto, appunto. Quindi si erano fatti una base di fan fedelissimi che li seguivano ovunque, che dalle descrizioni appunto della carriera dei Tubes e la totale devozione dei loro fan mi ha ricordato molto un altro gruppo di fan sempre americani, però quelli dei Grateful Dead, ovvero le Deadheads, che seguivano appunto la band di Jerry Garcia ovunque si spostassero, e c'era sempre appunto questo zoccolo duro che non faceva mai andare i concerti, diciamo, vuoti, ecco. C'era sempre una base fedelissima su cui contare. E appunto, essendo una puntata dove ci andremo a riascoltare i grandi successi di questo gruppo, il prossimo brano che ci andremo a sentire sempre dei Tubes è un altro loro singolo, che non è famoso come White Punks on Dope, ma insomma ha avuto un discreto successo anche questo singolo a metà degli anni 70, e stiamo parlando di What Do You Want From Life. Anche questa un brano che ha una forte critica alla way of life americana, consumistica, e non aggiungo altro. Ascoltiamoci quest'altro singolo dei Tubes e ricordatevi sempre che siete qui a Basement Records, Radio Wombat, The Tubes. From life, to kidnap an heiress or threaten her with a knife. What do you want from life? To get cable TV and watch it every night. You met tonight. How can you tell when you're doing all right? Does your bank account swell while you're dreaming at night? How do you know when you're really in love? Do violins play when you're touching the one that you love? Things you must. citizen, you are entitled to a heated kidney-shaped pool, a microwave oven, don't watch the food cook, a Dyna Gym. I'll personally demonstrate it in the privacy of your own home. A king-size, titanic, unsinkable Molly Brown waterbed with polybendum, a foolproof plan, and an airtight alibi. Real Indian jewelry, a Gucci shoe tree, a year's supply of antibiotics, a new unlisted phone number, a beautifully restored Third Reich swizzle stick, Rosemary's baby, a dream date in knee pads with Paul Williams, a new Matador, a new Mastodon, a Maverick, a Mustang, a Montego, a Merc Montclair, a Meteor, a Mercedes, an MG, or a Mort Moriarty, a Maserati, a Mack truck, a new Monza, or a moped, a Winnebago. Hell, I heard of Winnebagos, we're giving them away. A Las Vegas wedding, a Mexican Sutra coffee pot or a baby's arm holding an apple. E questa era What Do You Want From Life dei Tubes. E adesso ci andremo ad ascoltare un altro grande gruppo che ha fatto la storia, i Suzy 4. E anche qui, che dire, appunto, era per quello che vi dicevo che che sarà più che altro una puntata di ascolto. Cioè, Suzy 4, nata e cresciuta a Detroit, cosa che forse non tutti sanno, che era di origine italiane, perché il nonno paterno era partito dall'Italia all'inizio del Novecento, e come tanti altri nostri connazionali arrivò appunto a Parris Island, a New York, e come spesso succedeva quando c'erano nomi e cognomi di altre lingue, poi quando ti dovevano segnare lì alla dogana dove arrivavano tutti le grandi navi che attraversavano l'oceano piene di migranti tra la fine dell'Ottocento e fino a metà anche del Novecento, i doganieri prendevano e rinominavano come sembrava meglio a loro i nomi e i cognomi dei nuovi arrivati, e quindi il nonno Quattrocchi divenne Quatro con una sola T, e da qui è appunto il nome della nipote Suzy 4. Che dire, questo è il secondo album di Suzy 4, che è chiamato appunto semplicemente 4, del 1974, tra l'altro, penso puro caso, però ci stava perfettamente, 74 Suzy 4. E allora noi adesso ci andremo ad ascoltare un paio di brani presi da questo album, non i due singoli come è successo prima precedentemente per i Tubes, però uno è il singolo, uno di quelle grandi hit che hanno portato i Suzy 4 ai vertici delle classifiche occidentali. In questo caso il singolo che ci ascolteremo è Devil Gate Drive, uno dei brani più famosi dei Suzy 4, e questo arrivò addirittura in prima posizione rimase in prima posizione nelle classifiche inglesi e australiane per diverso tempo, replicando il successo dell'album d'esordio. Però una curiosità: il primo brano che ci ascolteremo appunto di questa doppietta di Suzy 4 è Friday, un pezzo che in realtà nella versione americana dell'album era stato soppresso, non era stato inserito, e quindi mi sembrava giusto, che, visto che gli americani l'avevano escluso dalla scaletta dell'album, mi sembrava giusto farvelo sentire, e poi subito a ruota ci ascolteremo il appunto Devil Gate Drive, il singolo che riuscirà a conquistare i vertici di diverse classifiche di vendita di paesi occidentali, come appunto i primi due che vengono menzionati sono la classifica inglese e quella australiana. E quindi partiremo adesso con questa doppietta dei Suzy 4 con Friday e poi Devil's Gate Drive, una di seguito all'altra. E qui ovviamente, come amo sempre ricordarvi, siete sui vinili di recupero di Basement Records e questa ovviamente è naturalmente Radio Wombat. E dove se no? Thank you. questi erano i Susi 4 con la doppietta di Friday e Devil Gate Drive. E adesso ci andremo ad ascoltare il prossimo vinile, che poi alla fine in realtà è lo stesso di quello dei Tubes, però dall'altro lato, nel lato B, c'è un altro artista molto famoso, cioè Peter Frampton. Peter Frampton è stato, diciamo, ha avuto moltissimo successo negli anni 70. La sua carriera in realtà iniziò in precedenza, alla fine degli anni 60, con mi verrebbe da dire il più bieco teen pop, però insomma musica da adolescenti, lollipop pop, chiamatelo come vi pare. E lì era veramente, veramente molto giovane e riuscì a conquistare i giovanissimi della Gran Bretagna e fece anche un discreto successo di classifica, diventando un, come si direbbe in inglese, un teen idol. Però in realtà poi la sua carriera proseguì insieme a Steve Marriott, l'ex cantante degli Small Faces, quando andarono a fondare insieme gli Humble Pie, gruppo che ha avuto un successo direi relativo. Poi si affiancò, diciamo, al fenomeno del glam rock per un breve periodo, però la sua vera esplosione fu quando si rivelò definitivamente nella sua versione pop nel, proprio nel senso più ampio del termine, e diventando un artista prettamente e puramente commerciale, diciamo uno di quegli un rock da stadio, diciamo, ecco, oppure rock da FM, un tipo di suono fondamentalmente creato e ideato per conquistare le classifiche commerciali. E il suo grande successo fu quando fece uscire a metà degli anni 70, esattamente nel 1976, l'album dal vivo Frampton Comes Alive, che ebbe un successo stratosferico, talmente stratosferico da risultare, cioè pensate voi, incredibilmente l'album più venduto degli interi anni 70. Stiamo parlando di un qualcosa di 11 milioni di copie, di cui 8 milioni solo negli Stati Uniti. Cioè un fenomeno pop a tutto tondo, quindi cioè, diciamo che sì, so chi è, non è tra i miei artisti preferiti, essendo proprio prettamente e puramente commerciale, però almeno gli diamo atto di essere uno degli artisti più venduti e che commercialmente si sono spesi meglio all'interno degli anni 70, all'interno di questo doppio album live è contenuto anche la sua canzone di maggior successo in assoluto, quello che è diventato un po' l'inno ed è stato identificato istantaneamente poi con la figura di Peter Frampton, ovvero Show Me The Way. Una particolarità di questo grandissimo successo è che portò definitivamente alla ribalta un effetto per chitarra che era già stato utilizzato anche da altri grandi chitarristi, come il primo che mi viene in mente è Jeff Beck. Stiamo parlando del Lale Talk Box, un dispositivo progettato con un autoparlante Twitter, quindi che prende maggiormente in particolar modo le altre frequenze, che inviava un segnale alla chitarra attraverso un tubo di plastica che il cantante doveva tenere in bocca davanti al microfono in cui cantava. Quindi, insomma, una cosa un po' particolare che ha avuto sì, vari utilizzi, ma diciamo non è passata alla storia come uno dei maggiori effetti chitarristici più usati, come il fuzz o lo wah-wah, ecco. Però poi questo il Talk Box, dopo questa Show Me The Way, nonostante l'avessero usata anche altri grandi chitarristi, venne in quel modo automaticamente associato a Peter Frampton. E quindi che dire altro, se non andiamoci ad ascoltare questa Show Me The Way, e se non ricordarvi come sempre che questi sono i vinili di recupero di Basement Records, e qui ovviamente siete su Radio Wombat Firenze. Thank you. Questa era Show Me The Way in versione live ripreso dall'album famosissimo, come dicevamo prima, appunto Frampton Comes Alive del 1976, album appunto, come già detto, dalle vendite multimilionarie. E adesso ci andremo ad ascoltare un secondo che lo vado a prendere. Il prossimo vinile di stasera, anche questo raccolta, è una raccolta di diversi artisti, ne ho scelti due per voi, perché se seguite appunto le trasmissioni di Radio Wombat, e in particolare l'altra mia trasmissione Tonight Alive, come facevo a non scegliere questo disco, visto che appunto... due su tre degli artisti qui contenuti ci ho fatto una puntata monografica, e il primo da cui partiamo stasera da questo disco è il mitologico e leggendario John Martin. Che dire, appunto, vi farò ascoltare le canzoni, e poi se nel caso in cui vi dovesse piacere vi invito ad ascoltare la lunga trasmissione monografica che ho fatto qualche anno fa a Tonight Alive su John Martin. John Martin era appunto un musicista inglese che ha avuto il grandissimo merito di riuscire a fondere il folk, il blues e il jazz tutti in un'unica unità, un qualcosa che dopo l'esordio, che è London Conversation, quando ancora era giovanissimo, alla fine degli anni 60, per dire una persona a caso, Joni Mitchell arriverà a quei livelli se non tre anni più tardi, e non stiamo proprio parlando di una qualunque. Dietro a John Martin e la sua favolosa chitarra si dispiegava un gruppo meraviglioso che prima o poi andrò a approfondire, anche quello con una puntata di Tonight Alive, ve lo prometto, ovvero i Fairport Convention, specialmente nella figura mistica del contrabbassista Danny Thompson, che è stato un po' il padrino di diversi cantautori che si aggiravano appunto in quell'ambito tra folk, jazz e blues. Se era stata un po' la chioccia della scena al limite del Canterbury Sound, che era questa commistione tra il jazz, il blues e il folk. E quindi questo, stiamo già parlando di una sezione ritmica ai livelli massimi dell'ambito. E che dire in generale, per dare un'impronta a chi non dovesse conoscere John Martin, i suoi album capolavoro penso si possano racchiudere nel quinquennio 70-75, dove veramente ha scritto e suonato degli album che sono rimasti dei must all'interno del proprio genere. Personalmente, forse se ne dovessi scegliere uno, il mio preferito è Solid Air del 1973, però quella è questione di gusti. E anche la voce di John Martin, non solo la chitarra, erano favolose. Uno dei pochi che è riuscito, partendo dalle tracce di Donovan, perché anche lui proprio dichiarò che una delle sue primissime ispirazioni fu Donovan, che fu uno dei primi fu uno dei primi a tentare di coniugare il folk con ritmi jazz, e da lì poi è andato il nostro John Martin, che in realtà era gallese, si chiamava Ian McGrathy in realtà, John Martin, perché era sicuramente più tornava meglio a livello più commerciale, e è stato uno dei pochi che ha tentato di seguire quella impervia via vocale che aveva aperto uno dei grandissimi maestri e uno dei miei personalissimi miti, ovvero Tim Buckley, che però qui stiamo parlando dell'altra parte dell'oceano, però anche solo a prendere appunto come metro di paragone qualcosa che per me è una figura quasi mitologica come Tim Buckley, vi fa rendere conto appunto della considerazione massima che ho per John Martin. E appunto poi, se nel caso in cui vorreste approfondire la carriera di quest'artista, vi invito appunto un'altra volta ad andarvi a recuperare la puntata monografica di Tonight Alive. Però adesso ci andremo ad ascoltare un paio di brani presi da Solid Air, e la prima che andremo ad ascoltarci a brevissimo è May You Never. Ovviamente, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. May you never lay your head down without a hand to hold. May you never make your bed out in the cold. Just like a song, brother of mine, you know that I love you true. You never talk and touch it behind my back, and I know that means those that do. Oh, please, won't you be reading mine? Love is a lesson to learn in our time. Oh, please, won't you be reading to me. You know that I love you true. You hold no blade to stab me in the back, and I know that some do. Temper if you get in a bar. fate. Leon, never lose your woman. Meraviglia, per quanto personalmente mi riguarda, cioè poteva non, veramente non finire mai questa May You Never di John Martin. E nota a margine, come spesso succede, inutile dire che almeno per i primi suoi 20 anni di attività, John Martin fu quasi completamente ignorato da una qualsiasi tipo enciclopedia del rock o del folk di quegli anni, quando si dice essere troppo avanti con i tempi, no? È successo a tantissimi grandi artisti, tra l'altro succederà anche nel proseguo di questa puntata. Però sempre appunto dall'album Solid Air del 1973, adesso ci andremo ad ascoltare il brano che dà proprio il titolo all'album, l'omonima canzone appunto Solid Air. E questo ovviamente è sempre John Martin. Siete sempre qui sui vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. Solid Air. Walking the line and you've been living on solid air. Don't know what's going wrong inside. I can tell you that you're living on solid air. You've been painting the blue and you've been looking. And you've been looking through solid. Don't know what's going on in your mind. I can tell you that what you find when you're moving through solid. Solid. I know you, I love you. I could follow you in there. Even through something. You've been snowing in cold. You've been living on salt. Finding in gold, you've been living on solid air. I don't know what's going on inside. I can tell you that it's hard to hide when you're living on solid air. Solid air. Getting too deep, you've been living on. In your sleep and you've been moving through solid. I don't know what's going on in your mind, but I know you don't like what you find when you're sunlight. Walking your line, do you walk in on sunlight? You've been taking your time, but you've been walking on sunlight. Don't know what's going wrong inside. But I can tell you that it's hard to hide when you're living on solid. Solid. You've been living on solid. You've been seeing it. Questa era Solid Air di John Martin. E adesso andiamo al prossimo artista. Scusate. Altra. E questa appunto era Solid Air di John Martin. E adesso passiamo al prossimo artista, l'ultimo della rassegna di questa sera di Basement Records. Per certi versi lo possiamo identificare limitrofo via a John Martin. Stiamo parlando di un'altra autentica leggenda. Anche lui purtroppo rivalutata solo Nick Drake, quello di cui stiamo parlando in questo momento, ha avuto molto più sfortuna rispetto a John Martin. John Martin almeno ha avuto dei riconoscimenti durante la carriera, invece il povero Nick Drake l'ha avuto solo parecchi decenni dopo essere passato a miglior vita. Infatti una grandissima fetta di un certo tipo di non so neanche come definirlo, di artista folk o comunque alternative folk degli anni 90, riconoscono di dover moltissimo a quell'artista geniale ma incompreso come Nick Drake, appunto. Anche su di lui, nel caso in cui vi dovessero non lo conosceste e vi dovessero piacere la trifletta di canzoni che vi farò sentire stasera. C'è una puntata monografica di Tonight Alive che vi aspetta per proseguire l'approfondimento sulla sua carriera. Un artista veramente, veramente molto particolare, talmente particolare, talmente introverso e talmente controtendenza rispetto ai gusti del periodo, che appunto sfortunatamente per lui ha avuto gloria solo molti anni dopo aver concluso la sua vita. Era un personaggio che era credo l'antitesi esatta della rock star, una persona talmente timida e introversa da praticamente non riuscire neanche a fare delle esibizioni live, perché la sua tecnica chitarristica praticamente tra una canzone e l'altra Nick Drake doveva riaccordare tutte le volte la chitarra, quindi non c'erano proprio le tempistiche senza supporto per farlo esibire live, perché giustamente narra la leggenda che nell'unico live che si provò a fare, già tra la prima e la seconda canzone, che lui doveva tutto riaccordare la chitarra, la gente si era già, passatemi il francesismo, rotta le palle e cominciò a rumoreggiare. E vi immaginate un personaggio con una personalità già introversa, estremamente timida, come era quella di Nick Drake, fece sì che non fece mai più live in vita sua. Era proprio mentre le rockstar cercavano appunto tutti i vari stratagemmi per poter piacere alle persone e essere accettati dal pubblico, lui sembrava che andasse proprio nella direzione opposta. La sua voce era quasi neutra, cantava quasi senza emotività, però con una tecnica chitarristica sopraffina e soprattutto un'introspezione nei testi notevole, veramente, veramente, veramente molto profondi, che poi appunto purtroppo tutti questi meriti gli sono stati riconosciuti troppo tardi, anche perché lui era, come vi potete immaginare, era proprio al limite, se non oltre, la depressione. Era proprio, si sentiva un pesce fuor d'acqua nel mondo che lo circondava, e il suo lascito musicale in questo pianeta sono solamente 3 album registrati a 2 anni di distanza uno dall'altro, a partire dal primo, 5 Papers Left, che è del 1968, per poi concludere con l'ultimo, Pink Moon, che è del 72. Però permettetemi di dirlo, cioè 3 album che sono veramente 3 capolavori, in special modo con il senno di poi, sapendo quello che è successo. Pink Moon, a riascoltarlo, intendo l'album, un album tra l'altro molto breve come durata, assomiglia molto a un testamento, anche perché poi di lì a poco mi sembra, se non ricordo male, ormai sono passati tanti anni dalla puntata monografica, 2 anni dopo il suo ultimo album decise di porre fine alla sua esistenza con un overdose di barbiturici, dopo essere stato anche ricoverato in una clinica psichiatrica. Però il suo lascito artistico è immenso, immenso, e ha poi appunto a decenni di distanza ha generato anche tantissimi altri emuli e suoi, diciamo, tra virgolette, discepoli. E quindi adesso ci andremo ad ascoltare una di seguito all'altra questi tre brani che ho selezionato per voi da questo vinile di raccolta di Nick Drake, e ci andremo ad ascoltare Northern Sky, Pink Moon e Witch Wheel, magari con un inframmezzo tra una e quell'altra. Vi dirò due cose per fare, cioè due cose giusto per ricordare a chi si dovesse connettere oppure ascoltare nel frattempo, che siamo sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, ovviamente su Radio Wombat. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered. But through the people I have known, oh, if you would and you could, straighten my new mind's eye. Questa era Northern Sky, adesso ci ascolteremo Pink Moon, sempre Nick Drake. I saw it written and I saw it say, Pink Moon. So he written and so he say, Bingham is on his way. None of you stand so tall. Bingham, when I get you home, it's a Bingham. E adesso ci ascolteremo Witch Wheel. Nick Drake, Basement Records. Which way you go for? Which way you love? Which way you choose from? From the stars above. Which way you answer? Which way you call? Which way you take for your one and all? Tell me now, which way you love the best? Which do you dance for? Which makes you shine? Which will you choose now? If you won't choose mine, which will you hope for? Which can it be? Which will you take now? If you won't take me, tell me now, which will you love best? Questa era Witch Wheel con l'ultima svirgolata del vostro maldestro Penafoco. Stasera di tutte e di più, sta succedendo. Però questo era l'ultimo brano della trasmissione di stasera dei recuperi vinilici di Basement Records. E come saprete ormai che sono un abitudinario, come di consueto, vi rinnovo l'appuntamento con i programmi di Radio Wombat di domani, di domenica, che è uno dei giorni più fitti del palinsesto di radio, del palinsesto settimanale di Radio Wombat. Colgo l'occasione perché appunto il palinsesto è cambiato. Tenetelo sempre d'occhio perché appunto trasmissioni vengono aggiunte, altre vengono tolte, altre vengono spostate e quindi come ogni tanto mi piace ricordare, tenete sempre d'occhio il palinsesto di Radio Wombat che domani, domenica, vedrà la sua riapertura, il suo inizio alle ore 10 con Container, con appunto, come già dice il nome, un grande contenitore dove vengono messi tutti gli interventi o tutte le cose che ci vengono mandate e che non sono riuscite a trovare un posto nelle trasmissioni già esistenti su Radio Wombat, e quindi è stato ideato Container per riuscire a contenere le più meritevoli. E poi il programma prosegue con la replica dell'ultima puntata dei Libri Ribelli letti da Sansa, appunto. La puntata di domenica però è una replica dell'ultima puntata andata in onda, e per poi proseguire con il consueto notiziario anticlericale che va in diretta da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo, per poi proseguire con la replica dell'ultima puntata andata in onda di Wook Wops, che i nostri inviati ci aggiorneranno su quello che sta succedendo dall'altra parte dell'Atlantico. Poi il palinsesto, il programma prosegue con Poyuit dalle 15.30 alle 17.30, il programma che è la diretta emanazione del Festival della Letteratura Sociale, che di solito si svolge alla Folveriera Spazio Comune qui in centro a Firenze, per poi proseguire con una novità. Infatti lo storico programma della domenica, La Fuga del Gatto, è andato momentaneamente fuori dal palinsesto, e invece il suo posto in diretta dalle 19 alle 21 di domani domenica è stato preso dal Tempo delle Pere. Non vi voglio, visto che è una new entry della domenica, non vi voglio sciupare la sorpresa, e spero che vogliate togliervi questa curiosità domani dalle 19 alle 21 con il Tempo delle Pere. Per poi il programma il palinsesto si chiude con Il Furto di Trasmissioni Altrui, che è una replica appunto del Furto delle Trasmissioni Altrui, e andrà dalle 21.30 alle 22.30. Il Furto delle Trasmissioni Altrui, lo dice anche il nome stesso del programma, fa sì che Radio Wombat dalle radio amiche prenda dei programmi considerati meritevoli nell'ottica del Wombat e vi vengono riproposti proprio all'interno del palinsesto di Radio Wombat. E a questo punto non posso fare altro che augurarvi un buon proseguo di sabato sera, una buona prosecuzione qui sulle frequenze di Radio Wombat, e per quanto ci riguarda ci risentiremo il prossimo sabato o con Basement Records o con Tonight Alive. Chi può dirlo? Chi lo sa? Vedremo. Un buon fine settimana a tutti. Viva Radio Wombat! Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.